guardo in alto verso l'infinito, dove qualcuno ha usato tutto il blu. Da quella pace e luce son rapito, il mio punto fermo da qua giù. Quando mi sento sperso nella vita, la direzione giusta la dai tu. C'è sempre quel bisogno di un consiglio, anche se faccio un po' testa mia. Ricordo le parole, il mio sbadiglio, ma poi ho seguito quella giusta via. Ne son cresciuto e certo non mi pento di aver trovato in te un riferimento. Stella volare, mi sa indicare la strada per la felicità. A volte sbaglio e non la seguo, e mi ritrovo fermo a metà. E ci vorresti tu, qualche volta in più, per tutti quelli che non t'hanno visto mai. Un po' di luce in più, segui la scia, quando la speranza sembra andare via. Alzo gli occhi al cielo e tu sei lì. Al cielo è sempre lì.